La ilaha illallahu, imanan billah. Non c'è divinità tranne Allah, grazie a una fede che viene da Allah. La ilaha illallahu, amanan minallah. Non c'è divinità tranne Allah, grazie a concessione da parte di Allah. La ilaha illallah, amanatan indallah. Non c'è divinità tranne Allah, grazie a deposito di verità da parte di Allah che l'affida al cuore del credente.